La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Amici, un saluto da Franco D'Assisti e ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con il cinema qui su Radio 24, l'ora di cinema della nostra emittente. Allora, è una settimana con un film che si impone su tutti, perché è il ritorno nelle nostre sale di Quentin Tarantino dopo i successi di critica riscontrati al Festival di Cannes. Arriva Inglourious Basterd nelle nostre sale, è solo il primo di una serie di film di cui parleremo in una puntata molto molto ricca che andiamo subito a riassumere nel nostro titoli di testa. Inglourious Basterds, la guerra ai nazisti firmata Tarantino, arriva nei cinema italiani. Avanti e indietro nel tempo con sentimento. Convince un amore all'improvviso con Eric Bana. Jerry Calà, una voce nello specchio per Biancaneve e gli 007 nani. Fra poco in diretta alla Rosa Purpurea. In attesa dell'uscita del Nastro Bianco, Palma d'Oro a Cannes, a Milano una rassegna dedicata al cinema di Michael Haneke. Jim Carrey, protagonista di I Love You, Philip Morris. Le anticipazioni nella rubrica Trailer USA. Sono il tenente Aldo Reyn. Siamo i bastardi. Hai sentito parlare di noi? Siamo grandi ammiratori del tuo lavoro, uccidere nazisti. Ma come sicario di nazisti sei a livello amatoriale. Siamo qui per vedere se vuoi diventare un professionista. Sono una leggenda sui campi di battaglia della Francia occupata dai nazisti. Sono i bastardi, una pattuglia di ebrei disposti a tutto pur di eliminare i nazisti dalla faccia della terra. Si muovono in plotone con operazioni ben coordinate, alla fine delle quali tolgono lo scalpo ai malcapitati tedeschi. Sono loro i bastardi senza gloria del nuovo film di Quentin Tarantino, molto liberamente ispirato a quel maledetto treno blindato, film del 77 firmato da Enzo Castellari. Un nuovo omaggio, quindi, del regista di Pulp Fiction al cinema italiano di genere degli anni 70. Ma torniamo alla trama, anche se il film si basa più sulla descrizione delle situazioni che sullo sviluppo di un racconto. Finché si apre su una scena da grande western epico, una famiglia nella prateria, tre figlie bellissime, i cattivi che arrivano, con le sinistre divise dell'SS, il martirio, la fuga di una delle tre ragazze. La ritroviamo qualche tempo dopo, rifugiata a Parigi, con una diversa identità, che gestisce un cinema. È lì che incontra un giovane eroe di guerra tedesco, le cui gesta diventeranno presto soggetto di un film. A quella premiere interverrà anche il Führer in persona, un'ottima occasione per i bastardi, per regolare un po' di conti. Il mio nome è Reyn, tenente Aldo Reyn, e mi servono 8 soldati. Ci lanceremo sulla Francia vestiti da civili, per fare una cosa e una sola. Uccidere i nazisti. Sì, signore! Prima di inoltrarci in un'analisi critica del film, cari ascoltatori, io vi devo una premessa personale che è anche un po' una confessione. Non sono un tarantiniano tarantinato. Il mio cinema di riferimento è un altro e quindi non elevo odi al maestro a prescindere dal suo lavoro, cosa che è abbastanza usuale dalle nostre parti. Un lavoro che ovviamente ammiro quando ce ne sono gli estremi, sin dai tempi di una affollata ma semi-anonima proiezione di Reservoir Dogs, poi tradotto da noi in Le Iene, cani della rapina. Era il 1993, ci trovavamo al Palazzetto Fevi di Locarno e questo festival si interrogava su chi fosse questo regista adrenalinico, sfrontato, ma così capace di comporre cinema. E poi ero a Cannes quando La Croisette fu sconquassata dal capolavoro Pulp Fiction. Insomma, ho visto nascere da vicino il fenomeno Tarantino. Ma poi ho assistito all'ipertrofia del suo cinema, film su film, minuti su minuti, film unici che diventavano doppi, leggi Kill Bill e Grindhouse, per carità, sempre ingredienti di prima qualità, procedendo però per iperboli narrative sempre più azzardate. Così nel suo cinema il senso dell'epica si è prima affiancato, poi sostituito a quello del racconto. E Inglourious Basterd è un po' il figlio di questa metamorfosi. Un film visivamente ineccepibile, se preso scena per scena, straordinarie per esempio la prima nella prateria, quella della taverna nella quale tre dei bastardi si ritrovano infiltrati alle prese con un vero gerarca nazista, o ancora l'incendio al cinema con le immagini del film che diventano fantasmi proiettate su uno schermo di fumo. Ecco, c'è sempre una quantità di costruzione e di inventiva cinematografica e cinefila da parte del regista di Knoxville, che è un vero piacere per gli occhi e per la mente, ma è un piacere situazionale, non di lunga durata. Non è un film, non è un cinema che ti rimane sulla pelle quando esci dalla sala o quando ci ripensi, almeno non a me. Fra tre giorni Joseph Goebbels darà una première di gala per il suo nuovo film a Parigi. A questo evento teutonico presenzierà la maggior parte dell'alto comando tedesco. Avremo tutte le uova marce in un solo cesto, in pratica. L'obiettivo? Far saltare il cesto. Premiere di gala per il suo nuovo film a Parigi. A questo evento teutonico presenzierà la maggior parte dell'alto comando tedesco. Avremo tutte le uova marce in un solo cesto, in pratica. L'obiettivo? Far saltare il cesto. E allora andiamo a sentire Quentin Tarantino, che ha raccontato un po' qual è stato il suo approccio a questo film, il tentativo di raccontare la guerra senza farne l'oggetto della narrazione. One of the things that I think has been a drag a little bit. Credo che una delle fregature dei film di guerra degli ultimi 20 anni sia che, a partire più o meno dagli anni 80, tutti i film di guerra hanno voluto condannare la Seconda Guerra Mondiale. E così dagli anni 80 hanno raccontato tutti la stessa storia. Anche nei 90 e fino ad oggi. Non c'è niente di male in questo. Ma prima di quegli anni sono stati fatti film veramente belli. Negli anni 40, per esempio, mentre la guerra era ancora in atto, e negli anni 50, 60 e perfino 70, nessuno pensava che fosse sbagliato fare un film di guerra avventuroso. E il mio film è proprio questo, un film d'avventura. Quentin Tarantino quindi racconta La Rosa Purpurea, il suo approccio al film Inglourious Basterds nelle sale cinematografiche italiane da questo fine settimana. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea ci sono altre novità che arrivano in sala, di cui vogliamo parlarvi, cominciando con un film d'animazione, un film che entra in un filone, in un solco che negli ultimi anni sta avendo sempre più successo, se vogliamo dirla tutta, insomma, è un filone aperto in un certo senso da Shrek, sul quale poi si sono inseriti tante filmografie, tra cui molto attiva quella tedesca. Si intitola Biancaneve e gli 007 nani, e come potete capire dall'inizio, la parodia è dietro l'angolo. Sentiamo Barbara Reghini. Sei uno schianto stasera, Biancaneve? Ti mangiano con gli occhi! Beh, che posso dire? Abiti firmati con scarpe abbinate, trucco perfetto e un profumo da favola. Ciao! È mora, ma forse questa è l'unica caratteristica che distingue Biancaneve da Paris Hilton, perché la protagonista di questa favola moderna è proprio un'adolescente scatenata, attenta solo a moda, feste e shopping, una Biancaneve irriconoscibile. Cresciuta senza la mamma, che era invece un modello da seguire per tutti i sudditi, Biancaneve, principessa nel regno delle favole, non ha nulla della creatura dolce e generosa che ogni bambino ha conosciuto. Il padre della ragazzina, il re, è molto preoccupato. Biancaneve non è obbediente e vive solo di gioie effimere. La sua passione per i ragazzi poi rischia di farle acquisire una nomea poco edificante. Inoltre, non manca mai di portare con sé amiche altrettanto superficiali, le classiche party girl. Ho bisogno di un pronto intervento. Argomento? Vestiario. Situazione? Un ragazzo. Mi sa che qualcuno sta scoppiando per Serpite. Vogliamo rimorchiarlo, Per aiutare la figlia, il papà cerca per lei una madre, ma sbaglia a scegliere la futura sposa, finendo per incappare in una strega. Biancaneve e gli 007 nani reinterpreta in chiave moderna la favola classica, echeggiando però personaggi provenienti da altre fiabe. L'ispirazione vorrebbe essere Shrek, ma la magia non riesce. La sceneggiatura fa acqua e a volte la trama sfiora involontariamente il grottesco. Più spesso le situazioni finiscono per essere ridicole. Ampiamente prevedibile poi il finale. Nella versione italiana Gianni Calà dà voce allo Specchio Magico e Antonella Clerici interpreta Biancaneve. Biancaneve mi piace perché è una ragazza... All'inizio ti sta un po' sulle scatole, no? Perché è molto effimera come ragazza. Io è una cosa che non sono mai stata, neanche da giovane. Cioè, lei ama molto il telefonino, e le amiche, lo shopping, la discoteca, la festa, no? Tutte queste cose qui. Poi però, anche attraverso l'amore di un ragazzo, ma attraverso anche gli incontri che lei fa nella vita e la figura di questa mamma molto presente nella sua vita, capisce che le cose reali poi sono altre. Sì, c'è anche il divertimento, ci sono anche queste cose, ma lei in quanto principessa deve fare, ha un ruolo che è molto importante, che è diverso, che è quello anche di far del bene agli altri. Poi c'è questo amore, insomma, col suo principe azzurro, che a noi donne piace moltissimo. Quindi alle bambine piacerà sicuramente. E questo era quindi il racconto di Biancaneve e gli 007 nani. Vi avevamo annunciato nei nostri titoli di testa un collegamento con Jerry Calà che non stiamo riuscendo ad effettuare. Ci proveremo e vediamo se ci riusciremo più tardi. Andiamo avanti invece con la nostra trasmissione, perché si apre qui la prima finestra sul DVD Game, il nostro gioco che ogni settimana vi fa vincere DVD dei film più belli che arrivano appunto nelle videoteche. Noi cominciamo con la prima delle tre tracce, ascoltate bene. Sai come... come mi sento? Mi sento come se la condotta della carburazione mi fosse tutta intasata. C'è sta il pistone, no? Quello fa su e giù, su e giù, su e giù tutto il tempo. Se perde i pezzettini, i granelli d'alluminio, no? Vanno a intasare tutto quanto, mi sento uguale. Dai. Ma quale dai e dai, Angelo? Dai, siamo giovani, cazzo! Guardati intorno, sono mezzi cadaveri! La Rosa Purpurea @radio24.it, se avete già indovinato di che film si tratta, ma più tardi ci saranno altre due possibilità. Posso aiutarla? Harry. Sì? Harry. Sei tu. Mi avevi detto che sarebbe capitato. Sono Claire. Claire Ebsher. Ecco, so che non mi conosci, ma... Senti, capisco che può sembrarti strano. È strano anche per me, ma... Ti va di uscire a cena con me, in modo che possa spiegarti? Andremo al Botai. È il tuo preferito? Sì. Queste erano le parole di un dialogo di Un amore all'improvviso, il film di cui vogliamo occuparci ora, fra quelli appunto che arrivano in sala. C'è effettivamente proprio bisogno di sedersi attorno a un tavolo e spiegarsi come fanno i due protagonisti del film? Se un giorno in una biblioteca una bella ragazza ti si avvicina, dice di amarti e che da tempo aspettava questo momento e ti invita a cena e tu non la conosci. Per inteso, a me, ma penso anche a voi, non è mai successo. In realtà Henry e Claire si conoscono da prima, anzi da dopo. Mettiamo ordine. La prima volta che Claire ha visto Henry era una bambina di 6 anni. Lui si materializzò in mezzo al giardino di casa sua col popò scoperto, senza vestiti, e gli disse che era venuto dal futuro. La bambina metabolizzò, con la facilità di mischiare realtà e magia che solo i bambini hanno, ma il maturo signore gli rimase in mente per tutta l'adolescenza, finché, appunto, non se lo ritrovò in biblioteca, in un incrocio temporale reale, nel senso che entrambi i protagonisti, nella scena che abbiamo sentito, si trovano nel loro presente. La cena si farà, e anche il dopo cena, a casa di lei, che presenterà lo strano fidanzato ad amici, prima scettici, poi inquieti, di fronte alle sue continue sparizioni. Henry c'è? No, è in biblioteca. Non lo sposare, Claire. Cosa? Non sposare Harry, ok? Sai, non me l'ha ancora chiesto, sì, insomma. Però hai capito di che parlo. Io lo amo. L'ho visto ieri sera al Vic. Roba da matti. Ha pestato un tipo nel vicolo e ha scassinato il negozio dell'usato della Marina. E poi mi ha detto che lui viaggia nel tempo. Sai, si sposta attraverso il tempo. E tu gli hai creduto? No, finché non è sparito davanti ai miei occhi. Sai, così è sparito. Sì, è un problema. E insomma, Harry viaggia nel tempo, avanti e indietro, a causa di una disfunzione genetica, e ogni volta arriva nudo alla meta perché i vestiti invece non viaggiano con lui. Ed è costretto a scassinare, rovistare, rubare, pur di avere addosso i panni per coprirsi. Una condizione certo difficile, che Claire però accetta. In pratica ha vissuto tutta la vita aspettando che quel destino che si era materializzato davanti ai suoi occhi di bambina venisse a maturazione, e ora non vuol più lasciarselo sfuggire. Anche se fare la moglie di un uomo così, che svanisce sul più bello e riappare magari 10 minuti dopo invecchiato di 15 anni perché arriva da un'altra epoca, insomma non è un menage tradizionale, anche se può avere i suoi vantaggi. Il primo numero dei 5 vincenti è 17. Il prossimo magari è il 23. È il numero 23. 23 è il numero 23. Oppure un 32. 32 è il prossimo. Non può essere il 40. Seguito da 40. Non sarà mica il 12. E il nostro ultimo numero è il 12. Hai appena vinto 5 32, milioni di dollari. 40 e 12. Sapete che da anni mi diverto a tirare le orecchie ai titolisti italiani. Chi ha deciso di mutare in Un amore all'improvviso il bellissimo titolo originale The Time Traveler's Wife, la moglie del viaggiatore nel tempo, non ha certo il senso della poesia. E compie inoltre un tradimento nei confronti dello spettatore che pensa a una commedia un po' frou-frou, mentre invece si trova di fronte a un dramma sentimentale. In questi giorni, leggendo i giornali, noto che la critica, anche italiana, accosta spesso questo film a Ghost, forse per la presenza dello stesso sceneggiatore, Joel Rubin, o per i lavori artistici della protagonista femminile o per questo senso del metafisico. Invece è tutta un'altra cosa. In Ghost c'era una viva che voleva amare un morto, cosa assai improbabile, e parlare con lui. Non è che sia molto più probabile viaggiare nel tempo, ma insomma qui ci sono due vivi alle prese con il loro desiderio di una vita normale, resa impossibile dal codice genetico di Harry che saltella qua e là negli anni e forse ci ricorda più il Michael J. Fox di Ritorno al Futuro con la DeLorean, la macchina del tempo, incorporata. Se analizzata però come metafora, la condizione di Harry e Claire è un po' quella di molti amori, di molte coppie del nostro tempo, amori interrotti, spezzettati dalla fretta, dal lavoro, dai mille stimoli della nostra vita che ci impediscono di essere sempre lì, dove chi ci ama ci vorrebbe. Vuoi sposarmi? No. Non pensavo di dire no. Ci ho solo voluto provare. Volevo dirlo per essere libera di scegliere. Ma la libertà è sceglierti. Allora cosa rispondi? Sì. Sì, certo. Andiamo allora ad ascoltare il protagonista, il viaggiatore nel tempo, Eric Bana, molto bravo devo dire in questo film, che tra l'altro gli fa passare anche come caratteristica del personaggio un lasso di tempo piuttosto vario, circa una ventina d'anni. Allora Eric Bana che racconta un po' l'alchimia che si è creata sul set con la sua partner Rachel McAdams. There's kind of nothing you can do. I realize there's really when it comes to chemistry you can't. Non c'è nulla come la chimica. Ero un fan di Rachel sin da prima di girare il film e ho sentito che avremmo lavorato bene insieme, come poi è accaduto davvero. Penso che avere un'anima gemella sia una condizione incredibile per qualcuno. Penso la si possa chiamare una connessione animale fra due persone. Quanto alla condizione del mio personaggio, beh, è una maledizione per il protagonista, ma una benedizione per lo spettatore, il fatto di essere divisi, ma allo stesso tempo legati l'uno all'altra. I meant to wrench these two people apart and force them to analyze how much they love each other. E questo era quindi Un amore all'improvviso, il film, l'ultima novità della quale vi abbiamo parlato in questa settimana, che abbiamo scelto per raccontarvi i nostri consigli al cinema. Diamo un'occhiata a qual è la classifica degli incassi sulla quale questi film cercheranno di andare ad insistere, classifica degli incassi che ha cambiato padrone. La scorsa settimana il film più visto nel weekend è stato Baria di Giuseppe Tornatore. Tra l'altro sapete, notizia della settimana, è il film scelto dall'Italia per andare agli Oscar. Poi chiaramente saranno le nomination a dire se entrerà nella cinquina, ma insomma è una scelta che il cinema italiano ha fatto, quella di farsi rappresentare da Giuseppe Tornatore, una scelta che non mi trova personalmente entusiasta, non per la bellezza o per l'importanza del film di Tornatore ovviamente, ma perché è un'estetica quella del film di Tornatore molto simile a quella che gli aveva già permesso quasi 20 anni fa ormai di vincere l'Oscar con Cinema Paradiso. È vero che all'estero amano, come dire, vederci rappresentati in questo modo, è anche vero che noi abbiamo delle responsabilità su quali sono i film che dobbiamo portare all'estero, e dopo il Divo e Gomorra forse si poteva cercare qualcosa, ma forse quel qualcosa non c'era, e allora viva Tornatore che sta incontrando il pubblico forse più di quello che ci si poteva aspettare. 2 milioni di incasso il primo weekend, insomma il film sta andando molto bene. Secondo posto per GeForce, terzo per L'Era Glaciale 3 che si avvicina a grandi passi ai 30 milioni di incasso globale, diventerà probabilmente il maggior incasso di tutta la stagione. Quarto posto per Basta che funzioni di Woody Allen, che sta trovando il suo pubblico, 2 milioni e 2 di incasso globale. Globale, continua ad andare molto bene nelle sale, a radicarsi. E io qui voglio aprire una finestra sulla rubrica, la novità, una delle novità anzi della Rosa Purpurea in questa versione autunnale, perché noi vi stiamo dando uno spazio che si intitola Critico in un minuto, e allora vi chiediamo di telefonare allo 02 46 52 40 10, numero che peraltro trovate sulla pagina web della Rosa Purpurea, e di dettarci, di lasciare la vostra recensione in meno di un minuto. Proprio di Basta che funzioni di Woody Allen ci ha parlato Roberto da Acqua Viva delle Fonti. Grande ritorno di Allen con Basta che funzioni, film brillante, vivace, dal ritmo incalzante. sembra di intravedere dietro le quinte la mano sapiente di un regista ringiovanito di 30 anni, difficile da tenere a freno, scalpitante e scoppiettante. Incredibile come riesca a mettere a confronto i mondi apparentemente diametralmente opposti dei due protagonisti. Da una parte la visione della vita nichilista, disincantata ma rabbiosa di lui, e dall'altra l'atteggiamento inconsapevole, svantito ma spontaneo di lei. Tra di essi funge da interfaccia un collante insospettabile, la meccanica quantistica. E queste sono le parole del nostro ascoltatore Roberto da Acquaviva delle Fonti, che ha recensito Basta che funzioni. Quinto posto in classifica invece per District 9, ne avevamo parlato bene la settimana scorsa, e anche questo è un film che sta prendendo piede. Lo ha recensito alla nostra segreteria telefonica Omar da Milano. In paese ambientazione, il confronto in un tête-à-tête tra uomo e alieno, là dove l'umanità è intrinseca ma non manifesta. Nella società dell'apparire, il culto resta all'oscurantismo della fantapolitica ed il fuoco fatuo è il colpo di coda. Beh, davvero ispirato, Omar da Milano. Allora, segreteria telefonica 02 46 52 40 10, dettateci la vostra recensione, noi cercheremo di mandarne in onda il maggior numero possibile. La rosa purpurea. Si fermi. Riprenda dall'inizio. Non mi sembra che si interessi molto alle indicazioni di dinamica. Che c'è scritto? Piano. Sì, esatto. E poi? Forte piano. E poi? E pianissimo. E diminuendo? E mezzo forte? Forte? Fortissimo? Sforzatissimo? Le indicazioni di Schubert vanno dal grido al mormorio, non dal parlaforte al parlapiano. L'anarchia non sembra essere il suo forte, Klemmer, perché non si limita a Clementi. Schubert era un tipo abbastanza brutto, lo sa, no? Lei con il suo fisico non riconoscerebbe l'abisso neanche se ci fosse dentro. Perché cerchi di distruggere quello che ci può avvicinare? Il manierismo non è certo positivo. Ma non vedi che non ti posso guardare? Non ti posso guardare perché se ti guardo non resisto alla tentazione di baciarti sul collo. Posso baciarti sul collo, Erika. E queste erano parole tratte da un film straordinario, forse qualcuno di voi lo ha riconosciuto, La pianista di Michael Haneke. Le abbiamo fatte ascoltare perché Michael Haneke è il protagonista, l'oggetto di un omaggio e di una rassegna a Milano, al Cinema Gnomo, dal 6 all'11 ottobre, che vogliamo segnalarvi, anche perché Michael Haneke è uno dei miei registi preferiti e quindi insomma ho deciso così d'imperio di proporvi Michael Haneke. Lo faccio chiamando però subito in causa un amico, un collega che è appunto in collegamento con noi, Fabrizio Fogliato, che peraltro è anche il co-curatore di questa rassegna che si intitola La visione negata, il cinema di Michael Haneke. Ciao Fabrizio! Ciao, buonasera a tutti. Eccoci qua. Allora, abbiamo fatto sentire La pianista. Quanto conta nel panorama della produzione di Michael Haneke? Quanto vale? A che posto sta questo film? Ma La pianista conta tantissimo, anche perché probabilmente è il film che gli apre le porte del grande pubblico. E poi conta tantissimo anche per un aspetto un pochettino nascosto, quasi autobiografico. In realtà lui, quando vive nella campagna viennese con una zia, cresce in un ambiente circondato da gente di teatro e la sua ambizione in quel periodo era proprio quella di diventare pianista, però a un certo punto scopre di non avere talento e quindi comincia a occuparsi di drammaturgia e la sua vita prende una svolta. Fabrizio, Michael Haneke, io l'ho incontrato, cinematograficamente parlando ovviamente, a Locarno. Quest'anno, questa puntata è la puntata dei ricordi di Locarno. A Locarno, era più o meno il 1990, adesso vado a memoria, in un film che si intitolava 71 frammenti di una cronologia del caso, titolo impegnativo, come dire, un film fulminante, davvero straordinario per regia, asciuttezza, drammaticità, pur con questa freddezza di sguardo che è quella tipica di Michael Haneke. Mi raccontarono che aveva già fatto dei film importanti come Benny's Video, come Il Settimo Continente, allora andai a Vienna a cercare i film di Michael Haneke, perché ricordo si era in un'epoca in cui non c'era internet, non c'erano i DVD, e andai alla sua casa di produzione, mi presentai, forse mi presero per pazzo, arrivato dall'Italia per questo, e poi però 15 giorni dopo mi vidi recapitare a casa casa tutti i film di Michael Haneke dalla produzione. Questo ci dice anche un po' del personaggio e anche del suo entourage, insomma, di come si è comportato. Questo per dire che da regista di culto di cinefili è diventato un regista assoluto, assolutamente presente già più volte a Cannes e quest'anno vincitore della Palma d'Oro con il film Il Nastro Bianco, che peraltro uscirà il 30 ottobre. Questo è anche il motivo per cui strategicamente è importante vedere i suoi film per chi può arrivare a Milano appunto la prossima settimana per farsi un po' una cultura. La domanda è, Fabrizio, com'è cambiato il cinema di Haneke, l'Haneke regista, da quei tempi dei film per cinefili? Anche adesso sono molto per cinefili, ha però questi tempi di grandi successi e grandi riconoscimenti planetari. Ma rimane pur sempre un cineasta ostico, nel senso che il suo primo cinema, quello come tu ricordavi, molto freddo, molto distaccato, è comunque rimasto nello spirito e nell'animo dei film susseguenti. Quello che forse è cambiato è l'approccio, cioè il fatto comunque di partire da presupposti magari anche letterari, come peraltro lui aveva già fatto al cinema, in televisione, la televisione austriaca, che aveva tratto due film, uno dal Castello di Kafka e l'altro dalla ribellione di Joseph Roth, quindi in qualche modo aveva già questo tipo di approccio. Probabilmente questo passaggio gli ha permesso, anche poi staccandosi dall'Austria, andando a vivere a Parigi, quindi facendo tutto, passando nel periodo francese, di essere un pochettino più morbido nell'affrontare determinate tematiche, e quindi attraverso i continui premi che ha vinto nei vari festival diventare comunque quasi un oggetto di culto, non solo per i cinefili, ma comunque di aprire anche il suo cinema a quello del grande pubblico. Ecco, ricordiamo fra i suoi film Funny Games, per esempio, forse può darsi che sia quello più conosciuto dal grande pubblico, Funny Games, che lui fece nel 97 ambientandolo in Austria, e rifece tale e quale, veramente scena per scena, con attori diversi, ovviamente anche più famosi, negli Stati Uniti nel 2004, se non ricordo male, comunque pochi anni fa. Ecco, questa è una cosa che non mi è mai andata giù. Per me Michael Haneke, anzi diciamolo bene come si pronuncia, che è il paladino di un certo tipo di cinema, non doveva cedere alle lusinghe del remake facile che hanno gli americani, che anziché far andare in America i film così come sono, l'hanno fatto con tanti horror giapponesi per esempio eccetera, li rifanno un anno dopo tali e quali. Ecco, però insomma gliela concediamo, perché poi ci ha regalato invece un ritorno a un rigore formale straordinario come quello appunto del Nastro Bianco, che vedremo sui nostri schermi nelle prossime settimane. Ti voglio chiedere una cosa, Fabrizio. Si è fatto un paragone negli ultimi tempi sempre di più, e dopo il Nastro Bianco ancora di più, con un nome totale della storia del cinema come quello di Bergman. Possiamo definire, accostare l'arte matura ormai di Michael Haneke con quella del grande maestro svedese? Ma dal punto di vista estetico penso proprio di sì, anche perché comunque ci sono alcuni aspetti, soprattutto nel rigore formale, nella costruzione anche dell'inquadratura e della scena, che sicuramente lo avvicinano a Ingmar Bergman. Quello che però rimane perfettamente suo, e come lui ha detto a Cannes quando gli hanno chiesto appunto se il suo era un film bergmaniano, lui ha risposto no, è un film manichiano, e spero che comunque lo sia anche per il pubblico, rimane comunque questa visione estremamente pessimista, e allo stesso tempo un film, Il Nastro Bianco, che è puntuale, arriva nel momento giusto in quest'epoca, anche perché è un film radicale che cerca di ragionare lucidamente su tutto quello che precede un movimento totalitario e violento, sia che si tratti di nazismo, come si è parlato, di fascismo, terrorismo, fondamentalismo religioso. Lui sostiene che appunto non ha importanza, perché questo film cerca proprio di ragionare su quelle che sono, come dire, le cause che antecedono al precipitare poi degli eventi, ecco. E allora dal 6 all'11 di ottobre una ricchissima rassegna sul cinema di Michael Haneke, sul cinema che potrebbe averlo ispirato e potrebbe essergli accostato. Grazie a Fabrizio Fogliato, ricordiamo il cinema gnomo di Milano. Ciao Fabrizio. Ciao, buona serata a tutti. E allora eccoci insieme ancora per parlare di DVD Game, cioè per sentire la seconda traccia del film misterioso di questa settimana. Come va? Va. Certo, prima del trapianto del rene lui lavorava, io lavoravo, andava bene. Adesso sta sempre a casa, cucina, non può mangiare niente lui. Cosa cucina? Tutto, era chef. Adesso cucina cose complicate, ma lui può mangiare solo riso sciapo. Oggi cosa ti ha cucinato? Tordi, al barolo, in una purea di fave. La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, per vincere questo DVD più tardi, un'altra possibilità. Ed eccoci a Trailer USA, un'altra delle nostre classiche rubriche, la nostra vetrina che anticipa il cinema americano facendovi ascoltare i suoni originali dei trailer. Oggi vi proponiamo un film che ci riporta un attore molto amato come Jim Carrey, ma anche un altro in costante ascesa come Ewan McGregor. Coppia inedita però in questo I Love You Philip Morris. I due, Carrey e McGregor, sono nei panni di due delinquenti omosessuali che si innamorano dietro le sbarre. Il regista è Glenn Ficarra, che fu già sceneggiatore di Babbo Bastardo, ricorderete, un film abbastanza particolare di qualche anno fa, un film tratto comunque da una storia vera che ci racconta la nostra Micaela Belisario. Ciao Micaela! Sì, ciao Franco. Allora sì, il film è la vera storia di Stephen J. Russell, un ex poliziotto e poi falsario che riuscì ad evadere di prigione solo per poter raggiungere l'ex compagno di cella di cui era perdutamente innamorato. Tutta la storia di Stephen inizia quando si mette alla ricerca della madre biologica. È un poliziotto texano, sposato, un bravo cristiano, un bravo marito. E sembra che tutto vada bene. Invece l'esito della ricerca non è dei più felici e questo fa scoprire a Stephen all'improvviso di essere gay. Quindi lascia la moglie, si trasferisce a Miami dove trova subito un compagno e comincia a vivere con un tenore di vita che va al di sopra delle sue possibilità. Quindi cosa fa? Diventa falsario e ovviamente attraverso le truffe finisce dritto in carcere. Ecco come si presenta Stephen appunto prima di finire dietro le sbarre. Hi, I'm Stephen. I used to be a real stand-up guy. I was a good father, a good Christian, and a great husband. And got to live in the American dream. Then one day, something wonderful happened. You might even call it a revelation. I'm gay! You're what? In carcere Stephen si innamora perdutamente di un altro detenuto, Philip Morris, un avvocato interpretato da Ewan McGregor. Bisogna dire che i due attori non hanno mostrato alcuna difficoltà nel film, nel ruolo dei gay innamorati, e la seconda parte di I Love You Philip Morris è quasi drammatica addirittura. Quando Philip Morris uscirà dal carcere, Stephen farà di tutto per raggiungerlo, anche a costo di commettere un altro reato, insomma una love story in piena regola. Eccoli in un colloquio tra di loro. We love each other. You're not even a fucking lawyer, are you? Fucking lawyer! You were supposed to protect me. And you expect me to love you? How can I? What the hell is this? That's all I could get. Bene, sull'uscita usiamo il condizionale. Il film ha subito molti slittamenti, si diceva addirittura che non sarebbe proprio più uscito in sala, invece adesso sembra che in Italia esca per la Lucky Red nel primo trimestre del 2010. Siamo davvero curiosi di vederlo. Intanto però ha fatto il giro dei festival, prima al Sundance di Robert Redford, poi a Cannes, alla Kenzen, e quindi insomma aspettiamo questo I Love You Philip Morris. Ciao Micaela, alla prossima settimana. Certo, ciao Franco, alla prossima settimana, e come sempre un saluto ai nostri ascoltatori. La Rosa Purpurea. Eccoci di nuovo insieme, La Rosa Purpurea, la sezione finale, quella che abbiamo ribattezzato Nuovo Cinema Casa Mia, per raccontarvi un po' tutto il cinema che potete vedere o in TV o in DVD. E cominciamo con il collegamento con i nostri amici della redazione di Film TV, ai quali chiediamo come sempre un consiglio per un recupero, per un film da rivedere, da registrare durante la prossima settimana. Oggi siamo andati a pescare davvero uno straordinario capolavoro della storia del cinema, 1931, la firma di Fritz Lang su M, il mostro di Düsseldorf. Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Una nuova vittima del mostro di Düsseldorf! Edizione straordinaria! Una bambina trovata uccisa nel parco! Eccole, signore, grazie! Edizione straordinaria! 10.000 marche di premio. Ma chi sarà questo assassino? Ieri ha ucciso un'altra bambina. Sarebbe ora che la polizia si muovesse. Non basta attaccare i manifesti al muro. Ha ragione, bisogna far qualcosa. Che ci sta a fare la polizia? Siamo stanche di stare tutti i giorni in pena per i nostri figli. È ora di agire, signori della polizia. Buongiorno Franco, oggi ci sentiamo noi dalla redazione di Film TV di parlarvi di un film per cui la parola capolavoro non è assolutamente sprecata. Si tratta di M, il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang. È un film dove il grande maestro del cinema espressionista tedesco ci mostra una figura di serial killer terrificante, in quanto è un serial killer di bambini, dove nella prima parte del film c'è proprio tutta l'efferratezza di questo grande crimine espresso con dei chiaroscuri e dei tagli di luce assolutamente impressionanti, soprattutto per l'epoca, un film della Seconda Guerra Mondiale. Il grande maestro tedesco Fritz Lang infatti poi dovette emigrare dalla Germania e scappare in qualche modo in America per continuare a fare film, ma già con Il mostro di Düsseldorf ci ha mostrato qualcosa di assolutamente incredibile, che ancora oggi ci sono film moderni che non riescono assolutamente ad eguagliare la potenza espressiva e la forza di questo film. Basta solo la sequenza finale del processo per renderci conto di tutta la forza che questo film portava. Oltre alla grandezza del film, ci sentiamo di consigliare questo M, il mostro di Düsseldorf, in quanto va in una fascia oraria molto particolare, che è quella delle 14 di La 7. Il film verrà presentato mercoledì 7 ottobre sulla 7 ed è in quella fascia oraria alle 14 che è molto interessante, in quanto molto spesso questa emittente ci mostra film assolutamente da recuperare che ogni cinefilo dovrebbe avere nella propria videoteca. Grazie a Sara Sagrati di Film TV. Ricordiamo ancora M, il mostro di Düsseldorf, sulla 7, mercoledì 7 ottobre alle ore 14. E siamo alla terza e conclusiva traccia del DVD Game di oggi. Infermiere, come un morso, tipo un morso di Lucio qui. Una cosa qua, è infarto, sicuramente un infarto. Sì, guardi, prima stanza a destra, del dottore. Magari è un po' d'ansia, magari ha bevuto, che ne so. Comunque c'è stata, fa una fila, eh. Voi vedete il casino che c'è, eh? Un attimo. Roma. Ho l'infarto, devo fare fila. Ho l'ansia. La Rosa Purpurea @radio24.it per provare a vincere, se avete indovinato di che film si tratta. Noi andiamo invece indietro di 7 giorni, vi facciamo ascoltare una delle clip che avevamo seminato una settimana fa. Scusi? Ne sono caduti questi? No. 50 centesimi? No. È sicura, perché stavano proprio qui per terra, eh? No, non sono i miei. Vabbè, oh, mi tengo io, magari mi portano pure fortuna. Lei è di zona? Che mi dite lei a me? Io no, perché? Anzi, stavo proprio a dire, mo' mi metto seduto. Posso, sì? Grazie. Piacere, Giulietta. Giulietta? Giura? Giuro. No, perché io mi chiamo Romeo. Piacere. Tante volte uno non ci crede, Giulietta, Romeo, invece... Si trattava dei mostri oggi, avete riconosciuto uno dei momenti del film, hanno indovinato per primi Corrado Palma di Pisa e Paolo Grendele di Valdagno, riceveranno a casa appunto il DVD dei mostri oggi, che ci aiuta a scoprire appunto come prodotto in DVD il nostro Claudio Pofi, che è già in collegamento con noi. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, il DVD è veramente molto bello. All'interno di questi 101 minuti sono spalmati i 16 episodi che il regista Olduini ha utilizzato per, insomma, fotografare questa Italia, costruirne insomma una caricatura sociale al vetriolo. Come dicevo, appunto, la qualità video è veramente notevole. Abbiamo tra l'altro una traccia in italiano in Dolby Digital multicanale molto interessante, e segnalo sicuramente per i contenuti speciali un dietro le quinte e delle divertenti scene tagliate. Noi andiamo indietro negli anni 70 con la prossima proposta, con un film che si intitola Il campo di cipolle, un film molto particolare, ascoltiamo la clip. Sadicamente Gregory Ulas Powell ha lasciato credere all'agente Campbell che gli avrebbe risparmiato la vita, fino al momento quando ha preso la mira e deliberatamente gli ha sparato un colpo fra gli occhi. Jimmy Lee Smith, con ripugnante, inumana barbarie, ha sparato altri 4 colpi letali contro l'agente ormai a terra, per poi insieme inseguire l'agente Hettinger, miracolosamente sfuggito a una crudele esecuzione. L'evidenza di questi fatti pienamente giustifica il verdetto di morte della giuria. Ed è questa la storia di questo normale controllo di polizia notturno dove due balordi finiscono per avere la meglio su due tutori della legge che vengono portati appunto in un campo di cipolle per venire uccisi, ma uno dei due riesce a scampare all'esecuzione, gli assassini, come abbiamo sentito, vengono catturati, processati e condannati a morte, però succede qualcosa, in effetti nel braccio della morte i due iniziano a studiare legge e otterranno una revisione della pena mentre il giovane poliziotto scampato alla morte inizia un pericoloso viaggio all'interno di uno squilibrio psichico e in preda ai sensi di colpa. Il film è del 1979, Gerold Becker arriva in DVD da Universal con una eccellente qualità video, tutte le tracce sono audio, sono monofoniche, ma comunque di buona qualità. Segnalo sicuramente per gli extra un nuovo esclusivo commento del regista Errol Becker e un bellissimo documentario che ripercorre la produzione del film. C'è invece la storia, la memoria di un giornalista inglese a New York, a Vanity Fair, prima assunto e poi licenziato, dietro il prossimo film che vogliamo proporvi, uscita in DVD, il film si intitola Star System, Se non ci sei, non esisti. Credimi, c'è un mucchio di gente in questa città che arriva alla prima stanza e non si muove da lì. Fra un annetto, di più forse, tu troverai un passaggio segreto in fondo alla prima stanza che conduce alla seconda. E col tempo, se sei fortunato, troverai un altro passaggio nella seconda stanza che conduce alla terza. Ci sono 7 stanze in tutto, una dietro l'altra. Tu sei nella prima, io nella 7ª. Non dimenticarlo. Posso usare il bagno della 7ª, quello della prima puzza? Una battuta caustica da Sidney Young, questo giornalista innamorato dello Star System, redattore di un giornale satirico di gossip londinese, che cerca di infilarsi in tutte le feste più VIP, questa audacia e insomma una propensione a far pasticci catturano l'attenzione di un editore di una prestigiosa rivista newyorkese che gli aprirà le porte dello star system hollywoodiano con esito imprevedibile. Io aggiungerei a quello che ha detto te Franco al fatto che in effetti questa è una commedia ampiamente ispirata alle memorie del giornalista poco capace Toby Young e che non solo è stato licenziato da Vanity Fair ma è riuscito addirittura a farsi allontanare dalla consulenza del film. Il prodotto è di Dolmen, arriva sia in DVD che in Blu-ray alta definizione, entrambi di notevolissima qualità, naturalmente il Blu-ray è superiore soprattutto per la parte video, molto interessanti gli extra perché ci sono delle divertentissime interviste al cast e un dietro le quinte di 22 minuti. Grazie Claudio, appuntamento fra 7 giorni per parlarci di DVD. A presto, un saluto. E chiudiamo noi con Claudio Poffi, come sempre, come da tradizione, la puntata della Rosa Purpurea. L'appuntamento va al prossimo sabato. Staremo insieme un'ora per raccontarvi tutto il cinema che c'è qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi.